te ne tanze, cicane tanze, cane tanze, hozzo di carvamba. Che dove tu cloni, poppi canni te ne tanze, cicane tanze, cane tanze, hozzo di carvamba. Sin der paine, la ruvenesti quel c'è su puntrinzi ti rosaine. Cloni pop, dixin cop, al sin der paine, la ruvenesti quel c'è su puntrinzi ti rosaine. Bas bumble d'orta in rock, so hadi rock on rock, si e vos so che bumble hot. Bas bumble d'orta in reglie, bas bumble d'orta in rock.